24 mattino. Ehi, hey, abbiamo il laureato a pieni voti. Siamo tutti fierissimi di te, Ben. Grazie, signora. È la tua nuova macchina, quella fetta rossa fuori? È stato il mio regalo per la laurea. Beh, con quella non avrai problemi a racchettarla, vero? Le bambocce, le marmocchie, le mocciose. Oh, credo che Ben abbia superato la fase delle marmocchie, vero? Hello, darkness. Con le note poetiche di Simon & Garfunkel, correva l'anno 68, giù di lì, il laureato, un grande esordio, un doppio esordio, e sapete che c'era Dustin Hoffman al centro della scena. Ebbene, Dustin Hoffman di nuovo al centro delle accuse, una nuova raffica di accuse che lo investe, e addirittura una nuova accusa di molestia, ma così congeniata. Avrebbe, dopo il successo di Rain Man, avrebbe accolto una ragazza aprendo le braccia e dicendo: hai mai fatto sesso con un uomo di 40 anni? Questo dettaglio era rimasto sopito per più di un quarto di secolo. Ieri qualcuno si è ricordato, forse per le altre accuse che inseguivano Dustin, e ha detto: molestia. Posso dire, io voglio difendere quel Dustin Hoffman lì, quel ragazzo, quello di questa colonna sonora, perché mi sembra che forse un po' di caccia agli streghi, come dice Mario Giordano, ci sia. Allora, iniziamo da una battaglia, quella che Avvenire sta facendo da tanti giorni: bonus bebè. L'impegno di Gentiloni e Renzi, sì, perché era stato cancellato, è cancellato attualmente dalla manovra, ma ci sono ipotesi per reintrodurre la misura. Caccia 200 milioni per coprire i nati nel 2018. Allora, su Avvenire, a pagina 9, ha il merito Avvenire di averlo tenuto in prima pagina, questo chiodo di quando mettete il bonus bebè, perché avete tolto il bonus bebè. E Marco Iasevoli ci spiega che cosa è successo. Se fossero stati accantonati i soldi non spesi nei primi anni del bonus bebè, già ci sarebbero tutte le risorse necessarie per rifinanziare la misura, almeno per chi nascerà nel 2018. I numeri dell'INPS dicono che nel 2015, udite udite, sono stati spesi poco più di 160 milioni, 42 in meno rispetto ai 202 che erano stati stanziati dal governo scorso. Considerando un effetto trascinamento anche nel 2016 e nel 2017, sul tavolo ci sarebbero almeno 120 milioni per garantire la minima continuità alla misura della natalità. Sarebbero, perché come si dice nel gergo tecnico, questi risparmi sono finiti in economia, quindi ridestinati per coprire altre spese o ridurre il peso del debito pubblico. Avete capito? Non li hanno utilizzati, zac! In un attimo li hanno portati via. I vostri messaggi 349-238-6666, perché adesso navighiamo ed entriamo dentro il cuore della rassegna stampa. Volevo farvi sentire un audio. Berlusconi racconta ancora una volta, sembra, come dire, sembra un grande ritorno al passato. Ha detto Chiara Geloni, un Berlusconi vintage, racconta come ha conosciuto Confalonieri. Lo sentiamo? No, non ce l'abbiamo. Beh, bello, ve lo racconto io. Suonavano insieme. E vabbè, la potente regia. Avevamo un regista di talento, però sta perdendo colpi. Allora, dicevo, tante cose che accadono. Il bonus bebè, vi ho raccontato. Lillo sul Fatto, a proposito di cose sapide e curiose. Apre il Fatto su un'intercettazione su Consip che inguaia ancora papà Renzi. Romeo, il famoso imprenditore indagato per questa inchiesta, discute con Russo, il galoppino del babbo, tra virgolette, del barettino, possibile luogo del vertice con Tiziano. Insomma, si sono incontrati o non si sono incontrati? Secondo il Fatto sì. È lo scoop di Secret su TV Loft, il nuovo programma di Marco Lillo, e lo anticipa ovviamente il suo giornale Il Fatto. Allora, abbiamo letto l'apertura del Fatto Quotidiano con un'intervista che poi andiamo a spigolare, in evidenza della malavenda riforma inutile, quella sulle intercettazioni che complica anche il lavoro dei PM. Andiamo all'apertura del Corriere della Sera. Pensioni, un errore il rinvio, questa è l'intervista del ministro Calenda, così il PD mette a rischio i conti dello Stato, anche questa ovviamente la leggeremo. Stadio della Roma a rischio, è tutto a rischio in Italia, il Tempo, l'apertura ovviamente. E poi ci sono i bollettini della famosa sezione di Colleoppio pubblicati dal giornale di Gianmarco Chiocci. Il Giornale: il PD fa pagare le tasse ai terremotati sfollati, sinistra senza pietà, il catenaccio. Si tratta di una lettera che la commissaria ha scritto ai comuni: dal 16 dicembre dovete tornare a pagare e chi non ce la fa c'è la possibilità di un prestito con MPS. Allè. Il Sole 24 Ore. Vi leggo, perché poi dopo andremo a scavarci dentro, sia l'apertura del Giornale: l'Euribor antiabusi passa al test di mercato, e la notizia poi che la Gran Bretagna alza i tassi, è successo anche in America, si stanno sollevando i tassi, noi resistiamo. E poi l'apertura di Finanza e Mercati, perché il Sole è in questo momento l'unico giornale che ci racconta cosa sta accadendo in Alitalia. Allora, il fondo statunitense, cioè Cerberus, con noi Alitalia può restare indipendente. E attenzione, la direttiva dei commissari, prioritaria l'integrità della compagnia. La verità ti fa male, lo sai. Oddio, ho fatto veramente una citazione fessa. E Banca Italia confessa: se c'ero, dormivo. Lo scandalo degli ispettori assunti nella banca del crack. Si tratta ovviamente di Popolare di Vicenza, Francesco Bonazzi. È il terzo giorno che la verità bastona Banca Italia su questi ispettori che sono passati da Banca Italia a dirigere Popolare di Vicenza. Il Foglio ha un'apertura su Micaricù, che sarebbe in siciliano Micarichi, ragioni semplici per capire perché la Sicilia non è come l'Ohio e perché da lunedì succederà di tutto ma non succederà nulla, il fondo di Cerasa. E poi la CIA pubblica i file di Bin Laden per provare i rapporti Iran-Al-Qaeda. Messaggero, apertura a tutta pagina, effettivamente il quotidiano di Virman Cusenza sta dedicando molta attenzione. Pensioni, ecco chi evita i 67 anni, perché quella norma di cui vi parlavamo, 15.000 persone salvaguardate, sembra che stia andando in porto nel documento della manovra. I 5 rischi nascosti e il fondo di Carlo Nordio nella legge sulle intercettazioni. Repubblica, Repubblica, Repubblica. In carcere 8 ministri, Barcellona si ribella, migliaia in piazza. È l'unico giornale che tiene ancora in apertura la Catalogna e ci sono queste foto dei manifestanti con un cartello giallo: libertà presos politicos, prigionieri politici. La Stampa, Piazza San Carlo, l'atto d'accusa dei PM, apertura che riguarda la giunta Appendino. A Torino pronti gli avvisi di garanzia contro i vertici cittadini, rischiano, attenzione, fino a 12 anni, un passo verso la verità, il fondo di La Spina. Il Muro di Roma, Corriere dello Sport, super difesa e nel fuorigioco imbattibile sulla Roma, e bingo la Lazio. Festeggiamolo un pochino che ieri ha vinto 1-0 col Nizza ed è la seconda italiana, per cui c'è bel tempo, ma buono anche il pareggio dell'Atalanta, buono, fuori casa al 94esimo, poi porca miseria, ho visto la partita. Montella rimandato, sì, perché il Milan invece ha pareggiato e lo sappiamo, è il motivo di cruccio di cui si è parlato alla cena del centrodestra. Anziché in galera, e avrete già capito che il titolo è quello di Libero, mandano a scuola fior di farabutti, corsi di rieducazione e deradicalizzazione al posto del carcere per i sospettati di terrorismo islamico. Il fondo su questo stesso tema è di Fausto Carioti, e poi c'è anche un altro fondo di Filippo Facci: fatta la legge troveranno l'inganno sulle intercettazioni. Bene, vi ho dato il super menu delle cose della giornata, poi vi racconto quindi fra pochissimo gli impresentabili a 5 stelle, c'è tutta una polemica, ci sono, non ci sono, uno scaricato, l'altro no, poi vi racconto del duello di Maio Renzi e poi tante altre cose, ma ci fermiamo un attimo, solo pochi secondi per il meteo e torniamo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. 4 mattino. Sono andato da solo sulle navi da crociera perché Fedele ha sempre sofferto il mare. Io sulle navi da crociera mi ingegnavo come potevo, lavoravo sempre. Alla mattina dirigevo i giochi sul ponte, al pomeriggio facevo da guida con i pullman ai passeggeri quando visitavamo le nuove città, qualche volta anche città che non avevo mai visto, e alla notte ero il protagonista di Une voix et une guitare sul ponte, dove cantavo canzoni e improvvisavo anche canzoni sulle singole persone. Ma va. Mi è sempre piaciuto trovare le rime giuste per fare qualcosa di nuovo. Eccolo, 7:33 minuti, 29 secondi. Vedete, c'è anche un po' di revisionismo. Fidel una volta era sulle navi, una volta no, adesso perché soffriva il mal di mare. Ma noi entriamo subito dentro la storia della destra. La destra è il patto dell'arancino. Ma Salvini snobba Berlusconi. Tre comizi diversi per Musumeci. Il leader leghista non va alla cena. Sì, questo è il senso delle cose, lo racconta Amedeo La Mattina La Stampa, pagina 11. Giorgia Meloni l'ha ribattezzato ironicamente il patto dell'arancino, detto alla catanese, in un patto che dovrebbe servire a lanciare il centrodestra alla riconquista di Palazzo Chigi, sbarrando la strada ai 5 Stelle. Partendo dalla Sicilia, per la precisione, da una trattoria alle spalle di Via Etnea, dentro una vecchia palazzina un po' sgarrupata. In molti scommettevano che Silvio Berlusconi non avrebbe messo piedi in una trattoria tanto popolare, ma forse il nome Trattoria del Cavaliere lo ha invogliato a sedersi attorno a un tavolo con Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Lorenzo Cesa. Fino alle 23, però, di increduli, se prima non arriva uno non arriva l'altro. Il candidato presidente Nello Musumeci ha temuto il forfè da parte dei tre leader, poi arrivati tutti ma in forte ritardo. Matteo Salvini no, aveva già fatto sapere che sarebbe arrivato a cena finita. Vengo a prendere un caffè. Non si vuole attovagliare, il leader della Lega Nord, non più Nord, vuole mantenere le distanze. E quindi è un patto, ma è anche non un patto, ma alla fine la destra c'è, seppure simbolicamente, nel patto dell'arancino. Così lo ha definito Giorgia Meloni e noi abbiamo sentito la sua vocina per quelli che erano già svegli di prima mattina. Allora, da questa storia per il centrodestra passo a questo, all'altro tormentone. C'è stato sulla stampa, come sapete, lo scoop sul candidato condannato nelle liste 5 Stelle, una condanna che non era segnalata al casellario giudiziario e quindi non se ne erano accorti. Facciamo subito un comunicato, dobbiamo sbatterlo fuori, questa storia ci danneggia. Giancarlo Cancelleri sgranaglia gli occhi sullo schermo e lo smartphone, sono le 11 del mattino ieri, la stampa, racconta Ilario Lombardo a pagina 11 del quotidiano torinese, ha appena rivelato che nella lista del candidato governatore grillino per la Sicilia c'è un condannato, Jonathan Ciappina. Passa mezz'ora dalla pubblicazione della notizia sul nostro sito e Ciappina è fuori dal movimento. Beh, però posso dire una cosa, cioè averne altri che in mezz'ora te lo buttano fuori. Assessore in pectore a processo, ma invece è lui a chiederlo, questa è un'altra storia. Anche Piero Fassino del PD consiglia ai grillini di posare la clava giudiziaria viste le recenti disavventure, è ancora il pezzo di Ilario Lombardo. Il condannato sbugiardato che spunta in lista, ma anche un possibile assessore rinviato a giudizio, è Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, anche lui vicino al centrodestra, arruolato dal Movimento 5 Stelle questa estate dopo essere stato silurato la sua giunta per l'insistita campagna contro l'abusivismo. Lui stesso andrà a processo in un paradosso tutto siculo per un presunto abuso contestatili dai vigili nel maggio del 2016. In realtà la vicenda si sarebbe risolta con una multa se non fosse che Cambiano, ritenendosi nel giusto, ha preferito non pagare e andare a processo. Allora medaglia per Cambiano. E allora vi dicevo degli echi di queste polemiche, il giornale a pagina 5 ha un'idea un po' diversa e segnala una differenza. Voi sapete che Claudio Fava aveva denunciato la presenza di un cugino di un boss nelle liste dei 5 Stelle e allora il giornale accusa i grillini di una doppia morale. Eccolo qui, dov'è? Pagina 5. E sostiene e i grillini cacciano eccolo qua, no, dov'è? Pagina 5, gli caccia gli impresentabili solo se portano pochi voti. La doppia morale ai cancellieri: molla un ex carabiniere condannato a 2 mesi, ma conferma il cugino del boss. Sì, però la domanda è: tutti gli altri in lista, gli impresentabili ce li hanno ancora? E sempre al giornale, dalla rottamazione alla fuga volontaria, il richiamo alla foresta, quegli ex PC che si riuniscono a D'Alema, effetto grasso sui Dem, via Bassolino, la vecchia ditta sogna la riscossa, obiettivo 10%. Micari, a pagina 8 del Corriere della Sera, eccolo lì, ma dov'è il Corriere della Sera? Ogni tanto mi perdo qualche pezzo. A pagina 8 del Corriere della Sera, ma non trovo il Corriere della Sera, eccolo qua. A pagina 8 del Corriere della Sera, terzo rullo di tamburo, eccolo qua. Il centrodestra vede la Sicilia come predellino di Palazzo Chigi. La nota di Massimo Franco spiega che non è più solo una partita siciliana e che ovviamente, ma lo sapevamo già, è diventato l'anno zero. Dicevo che la notizia curiosa di questa pagina è che Micari e Orlando hanno parlato in chiesa. Il parroco, che questa volta era consenziente, ricordate l'altro episodio di Renzi, si è scusato. Protesta dei 5 Stelle. Il candidato e il sindaco, niente politica e la messa era finita, ma c'è irritazione anche in curia e vorrei vedere. In piena campagna elettorale, lo racconta Felice Cavallaro a pagina 8 del Corriere, e un sindaco e un candidato che parlano dentro una chiesa, insomma, se non è campagna elettorale questa, è finita. Allora, c'è un'altra cosa, visto che stiamo facendo un po' le pulci, le abbiamo fatte al centro-sinistra, le abbiamo fatte ai 5 Stelle, facciamole pure al centro-destra, perché la Brambilla, e la notizia la trovo su ben 2 giornali, inizia un programma dalla parte degli animali. Ora voi dite, vabbè, ma qual è il problema? Beh, lo inizia su Rete 4 ed è Corriere, pagina 51, questa notizia, ed è proprio... la Brambilla farà una lista, come è noto, di animalisti alleata del centrodestra. Un amore profondo, quello che lega l'onorevole Michela Vittoria Brambilla agli animali, così domani l'ex ministra è felice di tornare alla guida della seconda edizione del programma dalla parte degli animali, in onda il sabato alle 10.50 su Rete 4, la domenica sulla 5, pensate, e il lunedì alle 15.30 di nuovo su Rete 4. Maria Volpe, Ale! E tutti abbiamo fatto il giro. E abbiamo delle cose di cronaca che ci interessano molto. Allora, la vicenda di Colle Oppio si arricchisce per chi si è incuriosito. La sezione simbolo del centro-est, avete visto quanto era arrabbiata la Meloni. Tempo pubblica sia le notizie sulle difficoltà dello stadio di Roma, sia le ricevute. Così Fratelli d'Italia ha pagato l'affitto, ma il Campidoglio non lo sapeva. La vergogna e lo sfratto, ecco i bollettini pagati. Stiamo parlando di un pezzo di Fernando Magliaro a pagina 4. Allora, è uscito l'iPhone 10, Corriere, il Corriere della Sera ci dedica, ovviamente, perché ormai si tratta di eventi di costume, a pagina 39, eccolo qui, ecco l'iPhone 10, inizia l'era post-smartphone, sempre più sofisticati, i nuovi telefoni da smart diventano intelligenti. Il decimo, Melafonino e gli altri saranno cuore e cervello della nostra vita quotidiana. È un'articolessa di un'intera pagina, però è sicuramente interessante. Paolo Ottolina, se vi siete appena abituati a non dire telefono e siete passati all'anglicismo smartphone, potrebbe già essere il momento di cambiare. In molti dei nuovi dispositivi in arrivo il termine smart sta lasciando spazio a intelligent, che più o meno vuol dire la stessa cosa ma con una sfumatura e fa molta differenza. Marcare l'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale sui dispositivi tascabili. Questo fa anche il riconoscimento facciale. Ve lo immaginate quando cercano un evaso sullo schermo e ti beccano con la faccia. Ale. Allora, c'è un nuovo personaggio su Repubblica, pagina 17, devo fare lo scioglilingua, no? Come il protagonista di It, che dice lo scioglilingua sui calzini stretti che stanno sotto i letti, perché sennò mi pizzica Giannino. No, e dicevo, c'è un nuovo personaggio, un ministro degli esteri nominato dell'era Macron, no scusate, in Inghilterra, Babyface, alla difesa arriva Babyface e si porta la tarantola. Repubblica, pagina 17, Gavin Williamson, 41 anni ma ne dimostra 10 di meno, finora capogruppo Tory alla Camera dei Comuni, è il nuovo ministro della difesa britannico e qualcuno ha creato per lui il nomignolo Who, Gavin Who, cioè chi. Però è giovane, dicono che sia inesperto, dicono che non ha l'età e l'esperienza, ci racconta Enrico Franceschini, per guidare le forze armate e l'arsenale di sua maestà, però intanto è diventato ministro e noi siamo contenti, un giovane che entra in campo, poi vedremo che cosa dimostrerà. E che cosa altro c'è? Gli impresentabili? Lotito. Lo sapete che Lotito è tornato a muovere le truppe sulle curve? Sì, sembra incredibile, dopo tutte le polemiche, dopo il racconto che avevamo fatto proprio ai nostri microfoni, aveva detto lo rifarei e infatti l'ha rifatto, squalificata la curva della Lazio, la Nord, e lui apre la Sud. Ma che cosa succederà? Il Messaggero a pagina 31, secondo me basta che spunti fuori un adesivetto, succede la guerra nucleare e Lotito si riprende la Sud. La polemica è il pezzo di Emiliano Bernardini, l'indagine della federazione non ferma il presidente, domani apre ancora ai tifosi la curva dopo il caso degli adesivi di Anna Frank, gli abbonati della Nord chiusa per cori razzisti potranno di nuovo spostarsi in altri settori, fra i quali la Maestrelli. Ale, strade! Ciao papà, sei Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... "24 Mattino". Previdenza, niente aumento dell'età per chi fa lavori gravosi. Il governo apre il tavolo e ce lo dice Il Sole a pagina 5. Non aumenterà l'età, soltanto, attenzione, aprite le orecchie perché sapete che molti di voi ci seguono ogni giorno, ma chi non ha seguito questa diatriba non sa che c'è un tira e molla in corso. Ebbene, il 13, il tavolo sulle deroghe, Davide Colombo e Marco Rogari a pagina 5 del Sole. E i ritocchi al meccanismo automatico, Gentiloni, il rinvio non è la strada. Anche il PD benedice la trattativa, ma se salta, Emilia Patta, stessa pagina, la spalla, la parola passerà al Parlamento. Nessun rinvio di 6 mesi, almeno per il momento, della decisione amministrativa per rendere operativo l'adeguamento a 67 anni nel 2019 dei requisiti di pensionamento. Ma, come anticipato ieri dal Sole, probabili ritocchi, scrivono i due giornalisti, alla manovra all'esame del Senato per estendere la platea degli esentati dei lavori gravosi collegati all'ape social. Ecco che cosa succede, potrebbe anche essere migliorato in alcuni punti, come ad esempio la tempistica e nella calibratura, ritocchi dei requisiti di vecchiaia. Le correzioni non dovranno però intaccare la sostenibilità nel breve e medio periodo garantita dalle regole previdenziali in vigore, legge Fornero in primis. Allora, è molto importante di quante persone si parla, più o meno di 15.000, e il Sole ci dice anche quanto costa per il fabbisogno per i conti pubblici, più 11.5 miliardi in 10 mesi. Questo è il fabbisogno, con un aumento di circa attribuito in larga parte alle misure di erogazione effettuate a luglio-agosto per il salvataggio del sistema bancario. Quindi il fabbisogno aumenta perché ci sono stati ovviamente i salvataggi bancari. Allora, nel Messaggero, pagina 2-3, dedica la sua apertura alle pensioni. Vi dicevo che il quotidiano di Mancusenza sta seguendo tutti i giorni con molta attenzione. Ecco chi evita i 67 anni. Dalle maestre ai ferrovieri, ecco chi eviterà l'aumento. Si tratta delle categorie professionali già incluse nel beneficio dell'ape social, un bacino, come vi dicevo leggendo il Sole, di circa 15.000 persone che ora dovrà essere meglio definito. Stop a 67 87 anni per i lavori gravosi, l'apertura di pagina 2. Ma Calenda sul Corriere, e qui vado subito a leggere l'intervista, o almeno un suo estratto, non è d'accordo. Non è d'accordo con non con l'estensione dei 15.000, ma con il congelamento. Dice: il rinvio dell'età pensionabile sarebbe un grave errore. Così il PD mette a rischio i conti. Enrico Marro, a pagina 3, 10 giorni di trattative fra governo e sindacati per riuscire a trovare un'intesa sull'adeguamento dell'età pensionabile. Lunedì c'è il tavolo tecnico. Il PD chiede di rinviare tutto a giugno. Quindi dopo il voto, mentre il premier Paolo Gentiloni apre alle correzioni e si dice pronto a ridiscutere il meccanismo di calcolo per i lavori gravosi. Per il ministro dell'economia Piercarlo Padoan l'innalzamento in relazione alla maggiore aspettativa di vita non va toccato, e Carlo Calenda, ministro dello sviluppo, rimprovera il PD, sto leggendo sempre Marro sul Corriere della Sera, è un errore di metodo e di merito, rinviare mette a rischio i conti. Allora, oltre a quello sulle pensioni, chiede Marro, si affollano emendamenti su una manovra, il solito assalto alla diligenza? Ecco cosa risponde Calenda. La manovra è ben equilibrata, disinnesca l'aumento dell'IVA, insiste sugli investimenti sul reddito di inclusione e sulla decontribuzione per le assunzioni dei giovani, tutto ciò portando il deficit all'1,6%. Il PD dovrebbe continuare sulla strada dell'ottimo Moro fatto in questi anni. Nel 2014 l'Italia cresceva allo 0,1, aveva un deficit del 3%, nel 2017 crescerà all'1,5% e avrà un deficit di poco superiore al 2%. Sono stati creati posti di lavoro, dice il ministro, l'export cresce più della Germania, il doppio della Francia, ma anche tantissimi altri ambiti, immigrazione, infrastrutture, cultura, giustizia e difesa, i ministri del PD hanno fatto un lavoro egregio. Non vedo alcun senso nell'iniziare adesso, dice Calenda al Corriere della Sera, una strategia di lotta e di governo all'inseguimento dei populismi. Quindi vedete che su questo si battaglia molto nel governo. Devo chiudere la pagina dei soldi con una citazione importante sull'Alitalia. Cerberus è questo fondo americano, pronti a trattare subito. Cerberus, Marco Valsania, conferma il suo interesse nell'investire in Alitalia. Siamo pronti a lavorare con tutte le parti per arrivare, Valsania scusate, a un accordo su un piano di lungo periodo che mantenga l'Italia intatta e indipendente. Sarà una buona fumata? Non lo so, ma io su Alitalia leggo tutto perché non dobbiamo dimenticare niente. E andiamo allora alla mitragliata. Giornale, pagina 7. Il PD fa pagare la tassa ai terremotati sfollati. Sarà vero? Ecco che cosa vi dico. Arriva questa lettera, la commissaria De Micheli chiede le imposte arretrate agli sfollati, ma se non avete soldi per pagarle, gli sfollati del terremoto, potrete ottenere un prestito da MPS. Il pezzo di Paolo Bracalini, furibondo, lo scandalo. Ad un anno esatto alla scossa e distruzione Norcia, la neocommissaria Paola De Micheli, deputata PD, già sottosegretario all'economia, ha trovato un modo originale per celebrare la ricorrenza. E aspettiamo di vedere se la De Micheli risponde a qualcosa, però la circolare per ora c'è. Pagina 23 della Verità, una miniera d'oro, come sapete. Vi ricordate Doddore Meloni, quell'indipendentista sardo che aveva occupato l'isola di Malaventu? Bene, era sotto processo per questa indipendenza simbolica dichiarata su uno scoglio, un'isola piccolissima della Sardegna. La Corte d'Assise di Brescia lo assolve, però attenzione, dopo morto. Mosca, aerei antinuvole. Sapete che Putin era dispiaciuto che ci fosse cattivo tempo sopra le colline e le guglie dei grattacieli di Mosca, e allora ha stabilito questa cerimonia strana, cioè degli aerei sorvolano le nuvole sulla capitale della Russia e spargono delle sostanze, non sale, delle sostanze speciali che fanno dissolvere le nubi. Tutto può, egli, tutto può! Pagina 23. Sempre della verità, un'altra storia incredibile, c'era in corso una fuga, un'evasione, una fuga dopo una rapina, ebbene la polizia stava inseguendo questi malviventi, è stata bloccata da un corteo di cinghiali. È una notizia che abbiamo trovato sul secolo XIX, una banda di malviventi genovesi ha trovato un favoreggiamento inatteso. I cinghiali hanno tagliato la strada alla pattuglia della polizia durante l'inseguimento nel quartiere Righi, rione collinare del capoluogo ligure, due agenti feriti e pensate, sono scomparsi sia i ladri e sia i cinghiali. Lo abbiamo già anticipato durante la segna al Messaggero, pagina 9, l'assessore che per risolvere il problema dei Rom, assessore del centro-sinistra, ha evocato un leader e un esempio. Sapete quale? Quello di Adolf Hitler. Orvieto, giunta di centrosinistra, evoca zio Adolf come risoluzione del problema dei Rom e per fortuna si è dimesso. Bene, ci fermiamo per il giornale radio e poi arriviamo con Oscar Giannino, i cani e i gatti. Ricordate 800 24 00 24 per le vostre telefonate. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino. C'è anche Oscar Giannino!